La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. E i colori come sono? Sono belli. E il tuo preferito? Il blu. Sì, il blu. Com'è? Il blu è come quando vai in bicicletta e il vento ti spiaccica in faccia. Oppure come il mare. Il marrone senti. È come la corteccia di questo albero. La senti che è ruvida? È ruvidissima. E il rosso? Il rosso come il fuoco, come il cielo tramonto. Buonasera, ben ritrovati. Abbiamo deciso di aprire questa puntata della prima volta facendovi ascoltare un estratto del film Rosso come il cielo, una pellicola di qualche anno fa che parla di cecità e di bambini non vedenti. Un tema che torna grazie anche all'impegno dell'ospite di questa sera, Cesare Picco, musicista e compositore impegnato in questo mese con un tour, il Blind Date, progetto del quale parleremo tra pochissimo. Ma l'inizio di questa storia, la prima volta appunto, è da cercare lontano, nell'infanzia di questo musicista, nell'infanzia di Picco, quando a 4 anni inizia a suonare con la mamma. E allora, Cesare, com'è andata quella storia? Ce la racconti? È andata bene, perché sono qua a parlare ancora della mia musica dopo tanti anni. Sì, avevo 4 anni. Devo dire che questa è una cosa che capita spesso nell'ambiente classico. Un imprinting molto importante avviene appunto in quegli anni. C'era il famoso pianoforte a casa, come hanno molte persone, con l'unica differenza che mia mamma comunque già suonava anche mio padre, anche se non l'hanno mai fatto di professione. Diciamo che era un elemento vivo della casa. È iniziato tutto per gioco, perché potete immaginare a quell'età che cos'è. E in questo mia madre, devo dire, è stata veramente fondamentale e bravissima a pormelo come un gioco. Io suonavo quell'oretta ogni giorno seguendo i suoi esercizi e il suo approccio didattico, e poi molte delle altre ore del pomeriggio trasformavo quello stesso pianoforte nella mia stanza dei giochi, perché ho imparato a stare sotto lo strumento, la coda del pianoforte, e lì portavo i miei giochi, i miei pennarelli, i miei fogli, e quindi è diventato veramente, sono stati anni formativi. E poi non c'è niente di più straordinario e profondo di ascoltare qualcuno che suona mentre tu sei sotto. E questa è una cosa che poi mi sono portato avanti negli anni, perché mi capita quando faccio incontri un po' in giro per il mondo, anche per l'Italia, con soprattutto magari degli allievi giovanissimi, no? Che vogliono conoscere un po' così il mio modo di suonare, di approcciare la musica. Beh, la prima cosa che dico loro, dico: venite adesso qua sotto. E tutti rimangono completamente stupiti da questa cosa, ma poi appena lo provi è un'emozione fortissima, perché noi abbiamo un'idea del suono del pianoforte che arriva sempre davanti a noi, no? Anche simbolicamente. Simbolicamente, qua sei dentro, no? Dentro la balena, sei nella pancia della balena, sei tutt'uno con lo strumento e senti vibrare, e lì arrivi a capire il potere del suono. E tu quindi sei cresciuto con la musica, sei andato avanti. Quali sono stati i passaggi, diciamo, formali che ti hanno portato poi anche ad allontanarti da questa sorta di formalità? Ah, certo. Sono stati diversi e molto importanti. È chiaro che l'inizio è tutto sulla la musica classica, nel senso che io fino a 10, 11, 12 anni ho continuato al liceo musicale nella provincia in cui abitavo, Vercelli, a studiare con lezioni private e così via, con i classici concorsi che fanno migliaia e migliaia di ragazzi e di bambini che studiano musica classica. Ho avuto un colpo di fulmine che mi ha cambiato completamente la vita artistica, il modo di intendere la musica, ascoltando un brano di quello che allora non sapevo nemmeno chi fosse, un certo Bill Evans, un pianista americano che molti di voi per fortuna conoscono, È come se a 11-12 anni avessi capito che c'era tutto un altro mondo da esplorare, no? Come se avessi trovato la mappa geografica di un altro pianeta, no? E avessi detto, bene, adesso qua è tutto vergine per me e non posso far altro che camminare, andare a vedere fiumi, deserti, montagne. Ho continuato sempre, come si può dire, a mantenere vivo lo studio della musica classica grazie all'incontro con una persona straordinaria per me che mi ha formato. Sono stati gli anni più incredibili dell'adolescenza, tra i 13 e i 16, dove io ogni giorno affrontavo in maniera assolutamente libera qualunque tipo di musica. Dai Pink Floyd, dai Genesis, al barocco, a Bach, trascrivevo Stravinsky, Coltrane, Miles Davis, cioè lì ho imparato che appunto non esiste distinzione tra le musiche, ma eventualmente, come si diceva e diceva qualcuno, sempre tra bella musica e è brutta, vero, musica. E da lì poi è stato tutto un naturale evolversi di tutto questo. Ho cominciato a fare la mia musica, ho cominciato a usare il linguaggio dell'improvvisazione. Non ho dovuto decidere la mia professione, mi sono trovato a 16 anni a fare il mio primo concerto e andare avanti fino ad oggi. Però c'è anche molto coraggio, no, nelle tue scelte, perché poi una persona che nasce con una formazione classica tendenzialmente a volte resta imprigionato poi, no, in quegli schemi, anche in quel modo di avvicinarsi allo strumento, una sorta di riverenza nei confronti dello strumento. Tu spesso invece lo hai appunto trasformato prima nella balena e poi hai portato tutto nella balena, no? Cioè, una delle cose di cui si parla ultimamente è questo concerto al buio che stai proponendo. Volevo chiederti di raccontarci come nasce questa esperienza. Il concerto al buio nasce come concetto e come esigenza. Quando tu prima dicevi che spesso mi sono trovato ad aprire delle porte, io lo considero la missione primaria di chi fa, di chi è impegnato nel mondo dell'arte, di qualunque arte. È un'esigenza personale spinta, mossa da una curiosità onnivora e soprattutto da un desiderio di oltrepassare un po' i propri limiti. Indagando sempre di più in tutti questi anni, come dicevo prima, quello che io considero la forza primaria che ci tiene in vibrazione tutti quanti nel creato, cioè il suono, perché è per me la forma di comunicazione più grande, è il senso più forte della comunanza tra le persone e con il creato, come dicevo. Ho incominciato a capire e a approfondire lo studio di come i sensi possono agire su di noi. È stata una domanda molto semplice, adesso posso capirlo, nel senso che io suono come moltissimi musicisti, come la stragrande maggioranza dei musicisti fanno, ad occhi chiusi, no? Quante volte hai visto le immagini anche dello stesso direttore, no? Che dirige un'intera orchestra, 100 persone, però lui chiude gli occhi. Ecco, che cosa facciamo chiudendo gli occhi? È molto semplice, noi è come se chiedessimo di entrare molto più in comunicazione con noi stessi, è come se annullando la vista noi amplificassimo gli altri sensi. Ed è stata questa la semplicissima domanda, cioè ho detto, bene, io lo faccio già naturalmente questa cosa nelle mie improvvisazioni, nei miei concerti, ma se io fossi obbligato, ecco i limiti da superare, no? Se io fossi obbligato a non vedere veramente più le mie mani, che cosa scatterebbe? Le mie mani saprebbero dove andare, cosa fare? Oppure non vedendo, quindi non guardando e non agendo con la nostra cultura, la nostra preparazione, i nostri studi, le mani potrebbero da sole andare in posti sconosciuti, cioè fare una musica che io non avrei mai immaginato. È nato tutto così. E in maniera veramente molto veloce si è tutto predisposto, nel senso che ho ideato questa sorta di formula molto precisa di questo concerto, cioè che in circa 10 minuti dalla penombra, per me e per il pubblico, automaticamente le luci si abbassano per andare nel buio assoluto, nel quale si sta assieme più o meno sotto la mezz'ora, ecco, non di più, per poi ritornare all'alba sensoriale. Parlo di buio assoluto. Ecco il problema che da subito si era posto. Parliamo di 8 anni fa, il 2009, c'era ancora il Teatro Smeraldo a Milano. Io debuttai, mi ricordo, in questo magnifico teatro che purtroppo non c'è più. Buio assoluto è quella situazione che in natura, nel mondo, esiste solo in due posti. Sotto le profondità marine, cioè laddove è presente l'immagine di Nemo del cartone animato, no? Quando il sole a un certo punto non arriva più sotto l'acqua e lì c'è il buio, oppure nelle caverne. Ecco, io intendo questo buio, quindi non il buio che è tutti quelli che dicono: ah beh, io ascolto spesso la mia musica in camera al buio, no, ma quello non è il vero buio che intendo io. Insomma, è una sfida che ha aperto quindi anche una dal punto di vista tecnico e della produzione un'avventura molto importante, perché fai conto che sono 8 anni che i miei tecnici, Daniele Valentini al suono e Matteo Mattioli alle luci, seguono costantemente questo concerto, e sono loro che riescono anche a lavorare al buio, perché anche loro hanno dovuto imparare a lavorare nelle tenebre. Ci fermiamo ora per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. La prima volta. Seconda parte della nostra trasmissione, sempre in compagnia di Cesare Picco, che gira l'Italia suonando il suo pianoforte in teatri completamente al buio. Un progetto che ha a che fare con la ricerca e con un bisogno di Picco stesso di avere attorno a sé, durante l'esecuzione del concerto, un silenzio perfetto che deriva ed è collegato al buio, come avremo modo di raccontare nel corso di questa puntata. Questo tema del buio, no? Il buio spesso è associato alla paura. Da dove nasce? Cioè, io voglio capire, al di là del fatto che tu suoni con gli occhi chiusi, ma poi in realtà tu ti sei spinto oltre, hai voluto il buio assoluto, il buio delle caverne, hai detto no, quindi degli abissi, dall'abisso può venire fuori qualsiasi cosa, anche dei mostri, insomma. Ma forse devono venire fuori dei mostri, forse penso che il buio sia, a questo punto della mia esperienza, dopo tutti questi anni, e soprattutto avendo da una parte una banca, avendo raccolto una banca dati di impressioni di migliaia e migliaia di persone, e soprattutto da quando negli ultimi 5 anni sono a stretto contatto con CBM Italia, che è questa ONG di cui magari parleremo dopo, che con la quale la missione del ritorno alla luce è insomma quello che ci tiene amorevolmente assieme. Posso dire che il buio è una necessità. Se ci pensi dal punto di vista di una sorta di generale metafora, io penso che proprio sia dal buio che poi noi riusciamo a tirare fuori il meglio di noi. Dal punto di vista musicale, io ho questa immagine e penso che i nuovi suoni, quelli che hanno cambiato la storia della nostra musica, è come se dimorassero nel buio, e sta al genio di Mozart, di Beethoven, di Chopin e così via, di tirarli fuori di lì, di portarli alla luce. Il mito della caverna. Il mito, esatto. Il buio certo che fa paura, deve far paura, ma ripeto, è una necessità. Abbiamo necessità del buio come abbiamo necessità del silenzio, quante volte lo diciamo, no? Di poter stare più a contatto con noi stessi, no? E il buio ti dà questa opportunità. È certo che ci sono dei momenti in cui di sicuro i tuoi timori vengono fuori, e soprattutto la nostra incapacità attuale di questa nostra società in cui viviamo, di questi tempi, di prenderci del tempo per noi, no? Pensa già solo per mezz'ora non avere a che fare con il proprio telefonino. Sembra un'assurdità dirlo, ma questo è un concerto che, come si può dire, ha delle regole precise, nel senso che sono i principi basilari della democrazia. Cioè, io non posso, io per non essere disturbato non posso disturbare, è un diritto comune. Voi dovete immaginare, pensate a un teatro con 1000 persone dentro, nel buio assoluto, basta che per 2 secondi qualcuno accenda il display di un telefono, o abbia anche solo banalmente non ritirato l'orologio con le lancette fosforescenti, e questa è una cosa che disturba 1000 persone, no? Quindi è un desiderio di ritrovarsi, di condividere questo percorso assieme. Io sono l'autista del pullman che guida con la musica, non puoi fare altro che attaccarti alla musica per vedere oltre. C'è anche un tema coraggioso collegato al fatto che il concerto in sé quindi non è condivisibile, no? Oggi si condivide tutto, cioè vado a un concerto, te lo faccio vedere quasi in tempo reale. Hai visto le immagini di tutti quei mega concerti delle più grandi star con 20.000 persone, con tutte le persone con il braccio alto con il telefonino? Quindi non riesci nemmeno più a goderti l'attimo, perché tu sei impegnata a registrare per i posteri, che poi parliamone. Per chi? Ciò che tu dovresti invece vivere con la più grande gioia, con la partecipazione. E per me, poi, per concludere questa metafora, da artista, da pianista sul palco, proprio in virtù di questa esplosione di filosofia dell'immagine fine a se stessa, beh, non sai cosa c'è di più bello di scomparire, il fatto di sapere che non solo non puoi essere fotografato, ma che proprio il principio di dire: ma tu non hai bisogno di vedere me, parliamo di musica, mettiamo la musica al centro di tutto. E poi, paradosso dei paradossi, ti stanno intervistando proprio perché tu hai fatto la scelta, diciamo, più coraggiosa e controcorrente. Cioè, sì, quindi sì, alla fine hai avuto ragione. E come nasce poi la collaborazione invece con CBM? Quindi come nasce questo progetto di date, di concerti? Certo, è stato un incontro come quelli belli, profondi e importanti che possono cambiare la vita artistica di una persona, o anche solo un'amicizia, un amore. Perché? Perché io ero già qualche anno, 2 o 3 anni che ero impegnato in giro per il mondo a fare questi concerti, e dopo un concerto in Svizzera mi ricordo che delle straordinarie ragazze piene di energia sono arrivate a presentarsi raccontandomi intanto che cos'era CBM Italia, e poi incominciando a dire: ma guarda che è un po' la nostra missione, queste cose. Insomma, quando CBM mi parlò di cecità evitabile, beh, e a me sembrava, no, un paradosso già questo termine, come: ma la cecità non si può evitare, se uno nasce cieco, nasce cieco. Ecco, invece la cosa importante da sapere è che nei paesi del sud del mondo, cioè quelli chiaramente estremamente poveri, dove l'igiene è scarsissima, migliaia di bambini, bambine nascono magari con delle semplicissime caterate, che da noi sono praticamente quasi, no? Cioè, in qualche secondo le puoi curare e risolvere. E beh, dal momento in cui nasci in questo modo, e beh, se non c'è nessuno che ti cura o che ti può dare una possibilità, tu rimarrai per sempre cieco. Quindi potete immaginare che cosa vuole dire a 3, 4, 5, 6 anni, 7 anni ritornare a vedere. E questa cosa io l'ho imparata seguendo per la prima volta, recandomi in India, in alcuni centri, in alcune missioni curate appunto e gestite da CBM. Beh, quando sei di fronte a un bambino, una bambina che ha recuperato la vista, che ti racconta che magari ha pianto la prima volta che ha visto le gocce di acqua sulla sua mano, o immaginate per 4-5 anni idealizzato il volto della madre, ha sentito solo la voce, ma poi è arrivato il giorno nel quale lei ha visto sua madre. Beh, se non è ritornare alla luce questo, ecco. E per finire, adesso, dopo questi anni e dopo l'incontro con CBM, se prima avevo, alla tua domanda, avevo paura di affrontare le tenebre, no? Dove c'era sempre quantomeno un momento di tensione, no? Come dire, bene, adesso dove vado, che cosa faccio? Adesso mi sono accorto di quanto per me sia importante pensare al momento del ritorno alla luce. Voi dovete sapere che, sempre suonando a occhi chiusi, io mi accorgo che ritorna la prima lama di luce dentro il pianoforte, perché sento il pubblico che fa, è come se fosse un respiro, no? Immaginate quindi 1000 persone che respirano, allora io lì capisco che le cose stanno cambiando, no? Che quindi apro gli occhi, vedo che la luce è tornata, e allora per me musicalmente, perché concepisco una improvvisazione totale in questo concerto, no? Io so che da quel momento in poi posso piano piano ritornare a casa e riportare a casa tutti. Quello per me, il ritorno alla luce, ormai ha assunto una profondità spirituale molto forte. Questo percorso a un certo punto si dovrà trasformare, no? Tu ci stai già pensando, stai immaginandoti qualcosa che possa superare appunto questa fase? Ho sempre affrontato in solitaria, dal punto di vista musicale, questo percorso. A ottobre, per queste due date di Milano, del 13 e 14 ottobre al Conservatorio, alla Sala Verdi, tornando dopo 3 anni in quella che è la mia città, la nostra città anche di CBM, quindi con un pubblico enorme che ci segue da sempre, avevo il desiderio di portare un qualcosa di nuovo, e per le due date di Milano quest'anno per la prima volta avrò di fianco a me sul palco un quartetto d'archi. È proprio tutto, anche per questa settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Continuate a scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it, pagina Facebook radio24-la prima volta. Buona serata a tutti da Cristina Carpinelli.